La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Oh, alla lettera di Rita Lupoli io non ho niente da rispondere. Ho una domanda. Tu credi nelle vite precedenti? Secondo il karma, se nella presente vita ti capita sempre la stessa maledetta situazione, è perché in una vita precedente chissà che cavolo hai combinato. Ecco, io non ce la faccio più. Ho 47 anni e devo essere stata una gran zoccola che andava con gli uomini delle altre in una vita passata. Perché in questa, di vita, mi sono rotta le palle di conoscere uomini che hanno ex indistruttibili, inavvicinabili, cattive, che le hanno trattate male e che loro continuano ad amare. Io, che in questa vita sono gentile, amorevole, paziente e comprensiva, conosco solo uomini così. E che cavolo! Sono stufa. Mi sono rotta le palle, Rita. Non ho niente da rispondere a questa lettera. L'ho letta perché mi fa ridere e perché credo che tantissimi di noi hanno pensato la stessa cosa, milioni di volte. Oh, allora ci scrive una signora indignata, Laura, a proposito della trasmissione in cui abbiamo parlato di un mio romanzo che si chiama Donna di piacere, che si svolge in un bordello umbro alla fine dell'Ottocento, e poi abbiamo commentato anche con l'autore il libro di Giuseppe Scaraffia, Le signore della notte. E scrive Laura: non avrei mai creduto che una donna sfruttasse un lato così misero della condizione femminile per riempire un'ora di programma. È come fare umorismo su un malato terminale. Invece di far apparire lo squallore di uomini che hanno bisogno di pagare al giorno d'oggi, state saltando delle azioni vergognose. E Scaraffia, che fa un maupassant in sedicesima, che delusione. Insomma, la mancanza di idee provoca queste cadute di tono. Almeno Berlusconi le paga bene, voi le state sfruttando gratis. Ma devo dire, sulla mancanza di idee, io credo che non mi basterebbero 25 vite per poter esprimere tutto quello che sento, ma a parte questo, io ho capito che la prostituzione non si può trattare, perché in qualsiasi modo trattiamo l'argomento, sia cronaca, sia affabulazione, sia saggio, c'è qualcuno che fieramente si indigna e ci tratta con disprezzo dall'alto di chissà quale superiorità morale. E si scatenano invariabilmente i moralisti delle due formazioni avverse, quelli che le difendono e quelli che le vorrebbero cancellare dalla faccia della terra, o quantomeno che se ne tacesse, nascondendole sotto il tappeto. Perché questo è un paese di tifosi, pro o contro? Guai alle sfumature, guai a un pensiero più vario e articolato. Hai visto mai pure dubbioso qualche volta? Io qui dal faro avevo difeso Patrizia Daddario, quella donna coraggiosa e sventata che ebbe l'ardire di sfidare l'uomo più potente d'Italia senza alcuna protezione, ed ebbe anche la ingenuità sublime di credere che a una manifestazione del PD a Piazza Navona sarebbe stata accolta, invece fu cacciata a spintoni. L'avevo paragonata alla Boule de Suif di Maupassant. Insulti, ma come hai potuto, come sei caduta in basso? Ma io non m'ero mai accorta di essere così in alto da non poter tendere la mano a una ragazza che aveva tutti contro. Poi mi sono rivoltata con forza quando una escort barese su YouTube recitò il Vangelo dell'obbligo di darsi, di prostituirsi a dei politici importanti, e che diceva che era l'unica cosa che una donna potesse fare, e le racchie a casa. Come se essere racchie fosse l'unica ragione per cui una donna magari non si rassegna a vendersi. E mi ero ribellata perché quello era proprio il punto estremo di una vera e propria esaltazione della cultura dell'essere tutto in vendita. Mi ero scagliata contro questi bordelli mortuari di Berlusconi, che erano un modo per beffare le donne, una derisione delle aspirazioni e del valore femminile. Come dire, ah sì, volete mettere bocca nella vita pubblica del vostro paese? Volete che i vostri meriti siano riconosciuti? Volete esistere politicamente? Benissimo, ci penso io. Prego, passate nei nostri letti e anche se siete delle rape, analfabete, io vi farò parlamentari o ministri per i soli meriti che può avere una donna. Come disse una di queste in una famosa intercettazione, dice: già, bravo lui, così ci mantengono i cittadini al posto suo e risparmia pure. E ci scrisse anche una prostituta dicendo: Berlusconi ha rovinato anche la nostra reputazione, perché ci sono molti modi di esercitare il mestiere. E anche lì insulti, perché le avevamo risposto. E si scoprirono tantissimi difensori della escort evangelista. Ora, lei dice che abbiamo sfruttato la figura della prostituta, ma chissà che altezza vertiginosa deve essere lei per sentirsi perfino superiore a Gesù, che era molto meno altezzoso di lei, Laura. Perché anche il Vangelo allora sfrutta la figura della prostituta in quanto la rappresenta. Ho paura che lei non saprebbe distinguere fra Maria Maddalena e Rubi Rubacuori, oppure fra Chichi de Montparnasse e Noemi Letizia. E poi beata lei, che tratta con sufficienza Scaraffia. Io invece ammiro la sua sapienza. Io non so cosa darei per avere la sua conoscenza della letteratura francese che ha coltivato in 40 anni di studi. Ma lei, scusi, Laura, ma che ha ascoltato? E con quale orecchio? Quello del pregiudizio. Lei ha almeno la capacità di capire di cosa stavamo parlando. E stavamo parlando di un romanzo, un mio romanzo, Donna di piacere, che ho scritto 30 anni fa, che si svolge in questo bordello umbro alla fine dell'Ottocento, dove l'io narrante è la serva del bordello, che finisce lì proprio inseguendo un sogno di santità, che poi raggiungerà. Nella copertina del libro era scritto: ella era stata una signora, ella divenne una puttana, ella incontrò un angelo. E ho proprio voglia di raccontarla questa storia, ho proprio voglia di accompagnare Chiara in questo suo strano cammino, perché lei, dopo essere finita, è una donna che è stata sposata, poi è finita nella casa di Madame Goulon, e se lei non dispiace vorrei continuare a seguirla, tornando indietro al giorno delle sue nozze, accompagnando questa ragazza matta, questa ragazza esaltata, che è la pazza del paese. E poi magari in un'altra domenica dal faro l'accompagneremo nel suo misterioso destino, quando, essendo la stella del bordello, riesce a guadagnarsi, come dice lei, a guadagnarsi questo posto ambito che è essere invece la serva del bordello. La guardiana del faro. Vi racconto la storia tratta dal romanzo che si chiama Donna di piacere, raccontato da Chiara. Chiara è la serva del bordello ed è finita lì dopo una serie di misteriose vicende. Cominciamo a raccontare dal giorno del suo matrimonio. È lei che parla. Ottiero è suo marito. Ottiero venne verso di me come gli sposi delle leggende. Oggi egli mi ha presa come sposa davanti a tutti. Io, la bestia rabbiosa che doveva morire, la ragazzina cattiva che mordeva sua madre e diceva a quel povero vecchio di suo padre, il macellaio: un giorno ti ucciderò. Ottiero m'aveva rapita agli orchi, alla mia famiglia di macellai assassini. Io sentivo la fratellanza con le bestie e so che ogni qualvolta mio padre uccide, uccide me. Compagno dei primi anni fu l'eterno strillare del maiale in agonia. Appena l'udivo, urlavo anch'io, con lui, sotto la luna. Dicevano che ero matta, mi riempivano di pugni, ma nulla poteva calmare il mio orrore. Chiara, perché piangi? Piango per la mia sorella Oca, che è stata sgozzata, e ho perso molto sangue. Li ho visti, nelle notti di novembre, bere alla coppa il sangue degli uccisi, gustandolo come rosso vino. Loro dicevano che erano sogni, e di giorno, così cortesi con tutti. Ah, io sapevo. Perché piangi, Chiara? Per la morte della vacca, mia madre. E giù botte. Ma le botte affermavano la differenza fra loro e me, e che la guerra è aperta. Mi raccomandavo a Dio: Signore, fa che non diventi come loro. Lo stupido prete aveva un bel minacciare l'inferno. L'inferno è mio padre che attizza le fiamme del camino e mi ficca il naso in bocca per sapere che ho mangiato e le dita negli occhi per sapere che ho pensato. Mio padre che, come un palo di guerra, si infigge nei miei sogni. Com'ero capitata fra quella gente, mi chiedevo. Certo, così, per caso, come un fuoco smarrito. Ma avevo il loro naso, i loro strani occhi e nella collera. Ero dei loro. Ma Dio m'avrebbe salvata. Avevo 5 anni. Quando ero in punizione, aspettavo che la soffitta si spalancasse e su un carro tirato da 7 angeli venisse a prendermi lui, che è dalla parte delle bestie, di chi non ha paura delle lacrime. In casa non mi amano, ma le bestie sentono la mia presenza. Ovunque vada, mi segue il saluto del bue e della cicala. Finché un giorno, inseguendo un uccello, che ha un canto meraviglioso, si inoltra nel bosco e lì capita in un luogo intricatissimo di rami, di rampicanti, che nascondono la cappella dell'eretico, un uomo che è stato mandato a rogo molti secoli prima. E lì ha l'impressione che di tra le foglie qualcuno la guardi. Strappai una grossa treccia d'edera e scoprì un volto di donna dipinto che mi fissava. E allora strappa, ed effettivamente qualcuno la sta guardando la faccia di una donna dipinta, e allora strappa tutti i rampicanti e vede l'intero dipinto e si trova davanti all'effigie di una santa leggendaria di cui ha sentito parlare, che si chiama Santa Mara, e vede Santa Mara coi capelli sciolti e una veste bianca vola al sommo di una slanciata collina. In basso Dio e Satana siedono sulle città in fiamme. Giocando di cortesia si dividono il mondo e bevono qualcosa che non è vino. Dio e Satana insieme, anch'essi bevitori di sangue. La terra sembra da loro posseduta senza speranza, ma laggiù, contro il cielo che il pittore ha fatto celeste come un piangente fiore, vola la santa e di loro non si cura. Mentre i bagliori del mondo in fiamme arrossano i cosmici gaglioffi, sul volto di Santa Mara v'è il piacere del cielo. A Chiara batte il cuore, che solo quello vorrebbe ormai nella vita. L'estasi misteriosa del volto che la fissò tra l'edera, come a chiamarla. E questa per lei è una grande rivelazione. Non sa come, non sa in che modo, ma sa che lo scopo della sua vita sarà un giorno raggiungere l'espressione della santa. E sente anche lei dei poteri strani, parla coi morti e sente che questi poteri aumentano. Mia madre mi picchiava con un cordino di bue, ma io recitavo una preghiera al bue morto e subito il cordino le si rivoltava, le si impigliava tra le mani e lei non riusciva a districarlo. Cominciano, dato che lei è così strana, si rifiuta di mangiare carne, cominciano a minacciarla di mandarla al manicomio. Passai la giovinezza nella minaccia d'essere rinchiusa. Questo mi rendeva furiosa. In paese mi chiamavano la pazza del macellaio. Sarei finita nella casa dei pazzi. Ah, se qualcuno venisse a liberarmi. Ma i giovanotti scappavano al mio apparire o mi strappavano i capelli. Io allora tiravo i sassi. Incontrai Ottiero e i sassi mi caddero di mano. Rimasi stupefatta davanti al suo volto pieno d'amore. Non volevo più uccidere mio padre. Lo avevo dimenticato. Per me c'era un solo pensiero: correre da lui quando gli altri dormivano. Mi calavo dalla finestra. Una notte mio padre mi scoprì, mi prese a calci e furono tutti d'accordo. Era giunto il momento di farmi rinchiudere, che portavo disonore alla casa. E volevano sapere chi era lui, ma io feci intendere che andavo con tutti, temendo per Ottiero l'ira di mio padre. Lui non mi credeva. Prese la frusta dicendo calmo: lo sputerai quel nome. Fu allora che Ottiero bussò alla porta. Con 2 testimoni veniva a chiedermi sposa. Facemmo un patto che non offenderemo mai l'amore. Staremo insieme solo finché sarà perfetto. La madre di Ottiero la odia. La madre di Ottiero è una vecchia cattivissima che gira sempre con questo gatto attorcigliato alle sue dita. E di notte, prima del matrimonio, va da lei col gatto offrendole dei soldi purché lasci Ottiero. Naturalmente senza esito. La notte delle nozze, mentre mi avviavo alla stanza nuziale, il gatto saltò davanti alla porta. Belva guardiana, non vuole che io entri. Ottiero gli dà un calcio e gli dice: ma va via, bestiaccia. Lei sorride, ma sapevo che non era così semplice. Sapevo che fin da allora potenze malvagie nei recessi della casa volevano la mia morte. Una notte, sognando i coltelli di mio padre, mi aggrappai Otiero e lo chiamavo mamma. Per onorarmi come moglie, Otiero mi tenne come un amante, senza doveri. Il matrimonio, il grande veleno, ci lasciava intatti. La prodigalità di Otiero mi incantava. La sua noncuranza verso i beni faceva piangere alla madre cocenti lacrime d'avarizia. Ebbi bisogno di un cordiale, la vecchia, quando le annunziammo che avevo smarrito l'anello di fidanzamento con 6 brillanti. Ma mentivamo. L'avevamo buttata insieme nelle tamaie una notte di luna, che io non potevo dormire ed ero sicura fosse l'anello regalatomi dalla suocera, la causa dell'insonnia e del mal di capo. Non eravamo amici dei nostri amici. Davanti a loro continuava un gioco esclusivo. Che entrasse pure il mondo. Esso rimane estraneo e non ci minaccia. Otiero certo non teme i fatui amici di famiglia e i giovanottini ambiziosi. Chiara è troppo superba per i piccoli amori. E poi nasce una figlia, Giglia. Giglia succhiò il seno sinistro e suo padre il destro, finché ebbi latte, brucianti tappeti, notti. Giglia cresceva, ninfa dolorosa, tu ispiravi il riserbo, non la timidezza. Diventando madre, scoprivo che la voce del sangue è solo la voce dell'immaginazione e del riso. Per lei fui il buffone, il sogno, sempre pronta a mostrare il rovescio delle cose, madre per contraddizione. Attraverso la famiglia, io, Chiara, in eccesso di superbia, mi sarei come la santa per troppa gioia sollevata da terra, e sentivo a volte il corpo quasi pronto, e allora correvo per difiato fino al bosco. Su di me, a Otiero giungevano chiacchiere a non finire. Lui scuoteva le spalle, e di notte mi stringeva con più forza. Ma proprio lì si incrinò il gioco. Nel nostro letto presuntuoso, cui parvero bastare slancio e vigore, fu lì che imparammo un poco a mentirci, per troppo amore, per noncuranza. Amore, che guaio. Morì il padre di Otiero, di una malattia costosa. Ancora affranta dalle spese, la suocera venne a stare da noi. Di notte si alzava a contare le posate d'argento e si avvide che ne mancavano 3. Le prese una crisi di cuore. Tutti accorsero e la trovarono quasi trafitta dalle posate preziose, schiantata dall'incuria verso la ricchezza, il grande peccato. E la suocera poi cerca di essere gentile per dissimulare, insomma, i suoi veri sentimenti. Ma negli occhi del gatto appare l'odio che la vecchia per uso di mondo nasconde. Tu mi molcisci, finta madre, tu mi lisci i capelli e ti fai per invidia serva della mia bellezza. Ma il gatto dice: un giorno ti strazieremo. Guardami, Chiara, sono crudele come un uomo. E guarda la mia grande padrona, tua suocera, è sanguinaria come un gatto. Tutto il giorno trama la vecchia perché il nostro amore si sciupi, che dice: quella vuol solo rovinarlo, e me lo grida in faccia. Ma se appare Giglia, cioè la figliola, no? La vecchia tace. Giglia la fa tremare. Giglia torna dal giardino con un fascio di rose. Il gatto fugge. La vecchia impallidisce e digrigna i denti. Ma Giglia non indietreggia. Dietro il suo sguardo ride un saggio disprezzo. E venite, nonna, vi do il braccio. E vi faccio l'infuso, nonna, siete stanca. E povera, povera morta, suonano i suoi gesti di soccorso, mentre la compone nella merenda. Ecco i vostri biscotti preferiti. Ma non mostratemi gioielli, nonna. Come intendere che un giorno sarò ricompensata? Avreste avuto in noi 2 figlie, sapete, se aveste pensato di meno alle posate. E le carezza la fronte. Povera nonna, chi vi ha punito, rendendovi impossibile l'amore? Essere sensibili, sapete, ci si diverte tanto. Ci si diverte sempre. Potrei regalarvi un piccolo dolore, nonna. Lo mettereste al dito, al posto di quell'ametista che richiama la morte, al vostro ditino, nonna, se non me lo porgeste come un artiglio per pugnalarmi. Dormite, nonna, non pensate a loro. Ma voi ci pensate, vero? Voi non potete proprio non pensarci. Dormite, nonna. L'oro splende in ogni angolo di questa grotta. L'oro che ammucchiaste nella vostra vita di corsaro è intorno al letto. Chiudete gli occhi o vi abbaglierà. Dormite, nonna. Non badate ai dolori al fegato. Esso è d'oro. E anche il cuore. e il moccio che vi pende e oro fuso che raccoglieremo in lingotti. Siete così ricca che le vostre flatulenze alzano nubi d'oro e l'odore è quello solare dell'oro. Il sole? Sì, ve lo metterò nella scarsella. Siete morta, nonna? La vecchia, russando, annuisce. Giglia era l'unica che riuscisse a farla addormentare. La guardiana del faro. Stavo raccontando la storia di Chiara, che abbiamo incontrato come io narrante in quanto serva del bordello di Madame Goulon nelle colline umbre alla fine dell'Ottocento, e stiamo raccontando un'altra parte della sua vita, quando era una donna sposata e che vive un grande amore coniugale, che però si guasterà. Leggevo ormai nel pensiero e non tenevo in nessun conto le parole. Ottiero se ne accorse. Negli occhi non mi guardava mai. Durante i baci sentivo nel suo petto risuonare qualcosa di estraneo. Le perfidie della madre avevano cominciato a contagiarlo. Ottiero diede una grande festa in giardino. Venne la figlia della rosa del buffet, una ragazza bella, alla vigilia dei suoi 18 anni e ancora senza fidanzato, perché intimidiva i giovanotti. Ottiero la guardò tutta la sera di nascosto e beve molto. Quando lei andò via, lui le corse dietro gridando: «Ha perduto il suo mazzetto, mi aspetti!» Si incontrarono sul cancello. Fin da lontano sentivo i loro respiri ammalati dalla voglia di baciarsi, ma non lo fecero. Quel bacio mi straziò per giorni. Non ero più la sposa, ma la guardiana odiosa. Come potrei gioire di una fedeltà dovuta al timore? Tra me e Ottiero non v'è più quel gioco speciale che tutti esclude. Ora, come i dubbiosi e un po' vili mariti, egli sospira, mentendo, per una fanciulla. Lo pregai di andare da lei, ma lui negava e disse: «Sei pazza!» Quando Ottiero mi abbraccia, fra noi ci sono lui e la figlia della rosa, che piangono d'amore. E io li sento. E che posso farci se il mio corpo si chiude? Ero diventata estranea alla famiglia. Sentivo che avrebbero fatto qualcosa contro di me. La vecchia mi mandò un dolce fatto da lei. Lo diede al suo gatto. Morì subito, stecchito. Mi spiacque per quella cattiva creatura. Morire un dopo pranzo, senza gloria. Così lei avrebbe voluto ridurmi, con la bava che ora immalinconisce quel muso di povero delinquente. Seppellì il gatto senza onori. Dovevo andarmene subito. Ma dove? E mia figlia? Cominciai a buttare di nascosto il cibo che mi davano, perché mi ero accorta che la suocera mi stava avvelenando. E poi scopre che Ottiero è d'accordo con la madre. Scopre che lui è innamorato, lo sapeva già, ma che è innamorato di questa ragazza, la rosa del buffet, e che sa dell'avvelenamento della madre, non partecipa, ma è mai complice. La mia sorte è segnata. Quella notte feci il sogno che decise della mia vita. E Chiara sogna che corre nel bosco, che arriva nella cappella dell'eretico, per vedere il dipinto, sogna di essere dentro il dipinto. Riconobbi la valle e la gola selvaggia. Un tenue chiarore apparve in cielo. Santa Mara volava sopra di me e mi mostrava qualcosa. Mi mostrò una casa bianca sulla collina, dalle persiane verdi, chiuse come begli occhi. Santa Mara la indicava: «Vai, Chiara, vai laggiù. Quello è il luogo della tua pace». Mi svegliai tremante, con un solo desiderio: cercare quella casa. Poi Ottiero la obbliga a fare una grande passeggiata insieme, perché, avendo pensato di ucciderla, già si crea l'alibi. È gentilissimo con lei, è gentilissimo per farsi vedere dagli altri. E poi le fa fare anche una passeggiata in carrozza, e mentre galoppano per questa strada di campagna, la carrozza aveva imboccato una gola selvaggia, in tutto simile a quella del dipinto, e poi apparve la collina. E bianca su di essa la casa delle persiane verdi. Vede nella realtà, vicino a casa, la casa che le ha mostrato la santa. Chiede al marito chi abiti lassù, e il marito dice: «Non lo so, però si capisce che è qualcosa che non vuole dirle, qualcosa che non stia bene». E lei se ne va di casa, nonostante il dolore di lasciare Giglia per salvarsi la vita. Scappa di casa, e anche per andare nel posto che la santa le ha indicato. In un giorno di sereno lasciai la mia casa. I profumi della stagione mi accompagnarono fino al cancello. Mi voltai alla fine, come un viaggiatore che non tornerà più. E allora lei prende una carrozza e va verso questo luogo che l'ha indicato la santa. Alla casa sulla collina, disse all'uomo cassetta. Quello, stupefatto, rimase con la frusta a metà. Poi si avviò senza fiatare, ma quando credeva che non lo guardassi, si girava a osservarmi. Attraversammo il ponte. Il vento mi portò via il cappello. Riuscii a riprenderlo con tale destrezza che scoppiai a ridere, come se col cappello avesse ripreso in mano tutta la mia vita. Più svelto, cocchiere! Ecco la strada del mio sogno e la collina. Traversammo la gola selvaggia, il ponte che trema sul torrente. La corsa porta via la mia vecchia vita, chiara finta signora, addio. Così dolce era l'aria che mi addormentai. Il cocchiere mi svegliò. Aprendo gli occhi, mi trovai davanti alla casa. Sulla porta c'era già Madame Goulon, col bastone e l'occhialino, in grande allarme, che mi aveva scambiata per una delle solite mogli che venivano di nascosto a fare le scenate, a offrire denaro perché i mariti fossero sbattuti fuori. Scene seccanti, in cui l'unica arma della vecchia era darsi un gran tono. Mi affrontò con fermezza. «Questo è un bordello onorato, signora!» Fu così che appresi d'essere al bordello. «Voglio rimanere», le dissi. La Goulon svenne. Aveva sognato, sì, di portarsene tutte al bordello, le belle dispettose che vanno alla messa di mezzogiorno al braccio dei mariti, volando sui cappellini fioriti di donne per bene. Ma i sogni di Madame sono ben distinti dalla realtà. E vedersene una, lì, davvero, pronta a cominciare il mestiere, per la felicità le si fece male. Ci volle l'assenzio. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. 24 anni e sospeso tra due fuochi. La possibilità di un salto nel vuoto, donandomi completamente alle parole e alla musica, è un nuovo e razionale percorso universitario con un margine di certezza maggiore, o almeno così si dice. Per te che ti vedo come colei che ha rincorso la rivelazione, mentre tutto correva e corre ancora per l'esperienza come unica risposta alle parentesi del cuore, l'ebbrezza di un salto nel vuoto e il rischio di sentirsi vivere? O solo vertigine destinata ad allentare il passo una volta toccata a terra? Un tuo fedele ascoltatore, Tom. Senti Tom, io non lo so se ho capito bene quello che mi hai scritto. E scusami anzi se l'ho un pochino sfrondata la tua lettera, che è un po' generica, però in una cosa credo sia inequivocabile, ed è la passione che hai dentro. Credo di capire che tu chiedi un incoraggiamento ad avere coraggio. Per quanto mi consta, so che l'unica cosa pericolosa è la prudenza. Non la prudenza saggezza, ma la prudenza castrazione. Poi sai, nessuna vita è tagliata in due con la scimitarra. C'è la terra, c'è il cielo, c'è la mezzaltezza. Credo di capire che ti stai buttando in qualche impresa audace e vuoi sapere come sarebbe, nel caso, la caduta. Beh, quello lo saprai quando cadrai. Quando accade si capisce se si era dei turisti dell'audacia oppure se si vuol prendere la cittadinanza di una vita libera che vuole costanza, fatica, bravura e meglio se si è benedetti dal senso dell'umorismo. Però, se a quanto ho capito ti vuoi dare alle parole, io ho un consiglio, usane un po' meno. Scegliele, non metterci tutte quelle che ti vengono in mente. In tutte le espressioni artistiche, l'arte di togliere è quella più importante. A 26 anni, essendo una ragazza a cui mamma natura e dea fortuna non hanno negato niente, ho incontrato lui. Bello, famoso e ricchissimo. Io ero casta e pura come un giglio. Incominciò a telefonarmi tutti i giorni 6 o 7 volte. Venne per 2 giorni nella mia città e fra le tante cose fece un danno di 2.000 euro alla mia macchina che ne costa 25.000. Non volli niente, forse per poco, incominciò a pensare che ero un'eccezione, perché le donne sono delle gran puttane, dice. Lui parlò pure ai miei genitori dicendo che voleva sposarmi. Un maledetto giorno, decisi di prendere l'aereo e andare da lui. Andammo in un hotel e la prima notte non fu come me l'ero immaginata. Con la televisione accesa, frasi sboccate e infine la sua mano sulla bocca per impedirmi di urlare dal dolore, mi prese, facendo e pretendendo cose da censura. Dopo, riprendendo a guardare il video, disse solamente che sarebbe venuta una volta al mese da me per rampare la sua numero 9, ora ex vergine. La mattina presto pagai il conto dell'albergo e tornai a casa. Ora sono qui, esteriormente quella di sempre, ma forse dentro porto da un mese il frutto di questo amore a senso unico. Al telefono gliel'ho detto, mi ha risposto non fare la stronza. E allora ho chiuso la comunicazione, per sempre. Non mi ha richiamato. Da parte mia posso assicurare che non lo cercherò più. Non so cosa farò. Per lui non riesco neppure a provare rancore, solo pena. È capitato anche a me, come a tutti, di guardare per una volta dietro la porta, ma mi si è richiusa in faccia. La biondina. Vediamo, facciamo un po' di conti. 26 anni, illibata. Più 2 giorni di visita, più 2.000 euro di danni, più 20.000 euro costo macchina, 6 o 7 telefonate al giorno, più nona ex vergine. Non si può fare. Manca un dato fondamentale. Quante lacrime hai versato? 2, 3, 5.000? Se aggiungi questo addendo, la tua lettera è una perfetta documentazione numerica, parente dell'amore quanto lo è il conto della spesa del Cantico dei Cantici. Cara biondina, troppe cifre nel tuo racconto perché un sentimento vero possa trovarci posto. In amore i conti tornano soltanto a chi conosce l'operazione più miracolosa, la moltiplicazione delle energie attraverso lo slancio. Persino l'essere casta e pura è una quotazione vincente nella borsa di un solido matrimonio fra ricchi. 6 o 7 telefonate va bene in un processo, non in un racconto amoroso, dove con un minimo di rapimento si sarebbe detto molte, non proprio lì con la calcolatrice. Nella poesia Amo i ricchi, la poetessa russa Marina Svetaeva dice: «C'è quella favola cattiva di come i cammelli attraversarono un ago». Io non ti rimprovero la ricchezza, sarei sciocca. Ti rimprovero di avere fatto tua una morale da ricchi in cui tutto si quantifica. Quanto a lui, non è che lo stupro e la risposta davanti alla probabilità di un figlio colgano proprio di sorpresa. Non è Parsifal che impazzisce o Lohengrin che diventa un maiale. Volgare lo è sempre stato, prima e dopo. Anzi, coerente con quella sua originale teoria. Uno che ti piaceva, uno del tuo mondo. La guardiana del faro. Шарманка шарлатанка, как сладко. I nuovi paria dell'amore, i padri separati. Alla moglie restano per solito i figli e la casa, cioè tutto. E il marito, rovinato dagli alimenti, escluso dal focolare, paga salata una festa alla quale non è invitato. Queste righe le ho scritte più di 20 anni fa rispondendo a una lettera per il settimanale Amica. Oggi invece il problema è diventato un'emergenza sociale. È strano in Italia, dove le donne vengono trattate malissimo, dove il corpo della femmina viene oltraggiato, sfruttato, vengono pagate meno nel lavoro, licenziate se incinte, dove addirittura è stato stilato, come credo da nessuna parte del mondo, il Vangelo della escort come se fosse l'unica soluzione per una donna vendersi. Poi, in sede di separazione, la madre viene sfacciatamente favorita ai danni del marito e padre, come a darle un impossibile risarcimento che danneggia tutti e soprattutto i figli. Certo, poi ovviamente non vogliamo dire che non accade il contrario. Ci sono anche padri che si comportano in modo ignobile, che vivono nel lusso e negano il necessario ai figli, e ci sono madri separate che portano dei carichi importabili. Però è innegabile che nella maggior parte dei casi è il padre a essere sacrificato, specie quando si scatena un odio maniacale da parte della ex moglie, che vuole cancellare la figura paterna e privarla di autorità, dignità e affetto. La separazione con figli diventa una strage degli innocenti. Adesso Longanesi ha pubblicato un libro di Tiberio Timperi, Nei tuoi occhi di bambino, dove l'autore racconta la vicenda dei rapporti di un padre separato, perseguitato dall'ex moglie, e il suo amore straziante per il figlio. Io l'ho letto, devo dire, l'ho trovato sconvolgente. Ammirevole per sobrietà. Non c'è una parola di troppo, non un effetto speciale, non un soffio di retorica. Ed è un dolore che si fa stile. Frasi brevissime, misura letteraria difficile, ci vuole maestria. Ed è la storia di questo padre che, dopo la separazione, da quando il figlio ancora è piccolissimo, viene escluso. E viene fatto segno a una strategia della distruzione. Viene calunniato, circondato dal sospetto, intorno a lui il mondo si popola di spie e si mette in moto una calunnia senza scrupoli, denunce per maltrattamenti su questo bambino che è tutta la sua vita, quindi strazio doppio, il bambino in mezzo. Interrogatorio ogni volta che torna a casa della madre dopo un'uscita col padre, alla ricerca di qualche elemento per attaccarlo. e la tenacia di questo padre che, attraverso questa macchina di tortura, invece di impazzire, diventa un padre totale, che vuol dire anche un padre madre. E tra l'altro il libro si comincia e si finisce con passione, perché non stanca mai per questa sincerità del dolore, poi perché parteggi, perché sei dalla sua parte, perché commuove, perché indigna. È la storia di quest'uomo alla mercé di una vera follia, perché questa moglie non ha altri motivi di odio se non il fatto che lo vuole uccidere. E allo strazio della separazione si aggiunge quello di sapere il figlio in mano a una matta, questo bambino che è il centro di tutti i loschi maneggi. Tiberio Timperi ne ha fatto una battaglia civile. Qui Capitaneria di Porto, il conduttore televisivo e giornalista Tiberio Timperi è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Tiberio? Eccoci qua. Tu prima parlavi della tua rubrica della sua amica 20 anni fa. Beh, allora andiamo oltre. 33 anni fa, Kramer contro Kramer. Ah, sì. 1979, non è cambiato assolutamente nulla. È vero, la donna è sfruttata, vilipesa, bunga bungata, perdonatemi questa orrida espressione. Quando si va davanti poi ai giudici le cose cambiano. C'è una sorta di debito morale che viene restituito in quell'istante. Il problema non è il problema dei padri separati, il problema non è dei padri mascalzoni, il problema non è quello delle madri farabutte, no, il problema è quello dei giudici. Anche se uno non ha votato Berlusconi, non può non accorgersi che, almeno per quanto riguarda la gestione del diritto di famiglia, beh, c'è una sorta di strabismo ideologico da parte di certi giudici, da parte di una certa magistratura. Non possiamo certo paragonare appunto le mene dannosissime di una persona che vuole modificare la legge per non essere condannata come Berlusconi, e invece questo atteggiamento veramente incomprensibile. No, però se uno attacca un certo modo di fare giustizia subito viene classificato. Ah sì, che questo volevi dire, certo. Sì, a questo volevo dire, nel senso che esiste un problema di giustizia da una prospettiva non meramente berlusconiana, questo mi premeva sottolineare, perché la legge parla chiaro, la legge parla di rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori, e invece certi giudici, la quasi totalità, affidano il figlio alla mamma, si inventano un genitore prevalente, si inventano una terminologia giuridica che è quella del genitore collocatario, che per l'appunto la legge non prevede, non contempla. In alcuni tribunali, quello di Brescia ad esempio, fino a poco tempo fa c'era un prestampato con la dicitura genitore collocatario e poi sotto il padre verserà la madre e con i puntini e da riempire. Allora c'è parità di diritti e non solo di doveri? Cioè, è questo quello che voleva un certo tipo di femminismo? Basti pensare che non molti giorni fa a Firenze l'Italia dei Valori, il comparto femminile, i TV Donne, ha detto no, dobbiamo cambiare la legge, dovete fare in modo e maniera di dare il bambino sempre e solo esclusivamente alla madre. Stiamo tornando al Medioevo. Allora, c'è un articolo della Costituzione bellissimo, che è l'articolo 3, pari dignità sociale, e quello che praticamente stabilisce che non ci siano discriminazioni in base a sesso, religione e quant'altro. Bene, allora, o si cambia la Costituzione o si rispetta la Costituzione. Qui ci sono delle spinte sovversive contro la Costituzione da parte dell'Italia dei Valori, da parte, uso un termine della Prima Repubblica, da parte di certi cattocomunisti, e affinché nulla si cambia. Allora, o eticamente da qualche parte mi si dice no, un genitore ha più diritto dell'altro perché ha portato in grembo un bambino per 9 mesi, o se non mi si dice questo, beh, io voglio che ci siano non solo doveri all'indomani della separazione, ma anche diritti. Poi possiamo discutere che ci siano padri mascalzoni, eccetera, per carità, va bene tutto, però quando anche ci fosse un solo padre che vuole fare il padre, la legge lo deve consentire al netto delle interpretazioni ideologiche. E poi non nascondiamoci dietro a un dito, diciamo la verità, c'è un giro d'affari impressionante, 5 miliardi di euro per l'avvocatura e 1 miliardo di euro per le consulenze degli psicologi. Allora la domanda è: chi ha voglia di andare a sovvertire un giro d'affari del genere? Conosco degli avvocati bravissimi e conosco anche degli altri che soffiano sul fuoco, che rendono i due genitori, li legittimano ad essere due belve, cioè, due belve che si azzannano sopra la testa del bambino. Non a caso in qualche occasione li ho denominati addetti ai livori. Sì. Poi ci sono avvocati onesti e sono la maggioranza, per carità, sia ben chiaro. Però ci sono quelli che fanno, molti di quelli che fanno famiglia, alcuni non resistono alla tentazione alzare il livello della conflittualità, perché poi questo è strumentale al giro d'affari. Guarda, io credo che ormai il tempo delle denunce abbia fatto veramente il suo tempo. Adesso è tempo di fare cosa? Allinearsi al resto d'Europa, introdurre i patti prematrimoniali e il divorzio in breve. Fine. Come nel resto d'Europa, perché non si può andare avanti così a ballare sulla pelle dei nostri figli, perché poi la domanda di fondo, cosa sarà del nostro paese quando cresceranno i figli dell'affidamento condiviso, sì, ma di polemiche? Senti, mi racconti come è stato il passaggio da essere vittima di questa situazione a poi farne una battaglia? Chi ti ha aiutato, guarda, chi ti ha seguito, la condizione che hai scoperto degli altri padri separati? Guarda, anni fa quando facevo il telegiornale e vedevo questi padri vestiti da Batman, ridevo. Capivo che c'era un dolore, ma non ho mai pensato che folklore potesse far rima con dolore. E poi l'ho capito anni dopo. Ma guarda, molto semplicemente, tempo fa è uscito sul Corriere della Sera un pezzo dove si diceva che io ero stato denunciato dalla madre di mio figlio. Dal momento che lavoro per la Rai, servizio pubblico, sono un personaggio pubblico, conduco un programma che si intitola In Famiglia, dovevo sgombrare il campo da qualsiasi tipo di equivoco generato da quel pezzo. Per cui ho scritto una lettera e l'ho consegnata a Panorama, perché il Corriere della Sera non aveva tutto quello spazio. E da lì si è messo in moto una sorta di cortocircuito mediatico e mi sono ritrovato sulla cresta di quest'onda fatta di dolore, dove mio malgrado mi sono trovato a portare avanti un problema che riguarda in Italia 4 milioni e mezzo di persone, di padri separati. Ho ricevuto attestati di stima da loro, ma anche dalle compagne di molti di questi, e anche da parte di certi avvocati che non ne possono più, di tanti altri disonesti che poi infamano, creano la categoria, certo. Esatto. E quindi si è creato questo movimento d'opinione. Sono stato molto fortunato. Ho fatto un lavoro che ho sempre desiderato fare. Mio figlio sta bene, io godo di buona salute, per cui credo sia giusto restituire alla vita quello che la vita ha dato a me. A 40 anni dalle grandi battaglie dei radicali del divorzio, dell'aborto, adesso è tempo di fare quest'altra grande battaglia. Divorzio breve e patti prematrimoniali. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.